Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani». Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto, non tentare il Signore il Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, ed a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a Lui e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata». Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, e vi farò pescatore d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli, e da Gerusalemme, e dalla Giudea, ed oltre il Giordano.